Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, la palla Spicchi non si ferma né sui parquet italiani né tantomeno su Radio 24. Dodicesima giornata di campionato. Roberto Scaltretti in regia, guest star in redazione Anna Rita D'Ambrosio. Il nostro Giorgio De Luca è già volato a Napoli, si starà rimpinzando di struffoli, beato lui, e lo salutiamo chiaramente. E passiamo però subito ai risultati di questa dodicesima giornata, perché in campo c'è un Milano-Varese davvero spettacolare. Siamo a metà del secondo quarto, 34 a 34 al Forum, e fra poco ci andremo. E ora Varese segna i due punti del 36 a 34. Milano rivoluzionata, non c'è Cook, non c'è Hendrix, via Frates, vice allenatore, dopo la rottura di questa settimana. Torna J.R. Bremer, che comunque, seppur all'esordio, il suo apporto in questa fase iniziale della gara lo sta dando, e come. E risultato importante anche perché Siena e Sassari hanno vinto, e quindi in caso di sconfitta varesina la dodicesima sancirebbe la nascita di un terzetto in testa alla classifica. Ma partiamo subito con i risultati. Anticipo di mezzogiorno, Acea Roma, Banco di Sardegna Sassari 81-83. Poi nel pomeriggio Vanoli Cremona, Scavolini Banca Marche Pesaro 91-73, Juve Caserta Umana Venezia 77-83 dopo un supplementare, Trenk Valder Reggio Emilia Sidiga Savellino 91-64, Saie 3 Bologna Montepaschi Siena 66-77, Angelico Biella Enel Brindisi 59-94, Sutor Montegranaro Che Bolletta Cantù 79-100, per una classifica che vede ora in testa Varese, Siena e Sassari a 20 punti, ma Varesini in campo appunto, Cantù a 16, 14 punti per Roma e Brindisi, 12 per Milano, Reggio Emilia, Bologna, 10 punti per Venezia e Caserta, 8 per Cremona, 6 punti Montegranaro, Biella e Avellino, chiude Pesaro a quota 4. Allora, vogliamo subito al Forum di Assago da Roberto Nardella, 37-36 per Milano a 4 minuti dal termine del secondo quarto. Roberto, buonasera. Beh, direi partita davvero spettacolare in questa parte iniziale. Buonasera, buonasera a tutti anche qui dal Forum di Assago. Partita spettacolare, cornice di pubblico spettacolare anche quella, 9.000 saranno circa gli spettatori presenti qui ad Assago, con un migliaio arrivati direttamente da Varese. 37-36 che rimane tale perché Milano va a sbagliare proprio in questo momento. Partita anche ad alto punteggio, da una parte l'Olimpia che continua a passarsi bene la palla, sono arrivati in questo momento 14 canestre per Milano con 9 assist, e soprattutto sono arrivati, mi viene da dire, 7 punti da parte di Stipcevic, un po' separato in casa, almeno in questi giorni, anche se dall'altra parte c'è un Mike Green negomoniato che sta tenendo incollata la partita varese. Sempre 37-36 il punteggio qui al Forum del Sago quando mancano 3 minuti alla fine della prima metà. Roberto, ti chiedo la prova di J.R. Bremer, Scariolo come lo sta gestendo questo cavallo di ritorno che Milano ha a lungo inseguito? Cavallo di ritorno spedito subito in quintetto per i, diciamo così, problemi di Stipcic di cui vi parlavo un istante fa, anche se però c'è da dire che fino a questo momento penso che sia anche abbastanza comprensibile, visto che Bremer è arrivato da qualche giorno. La gara migliore la passa decisamente Stipcic, anche se poi Bremer mi va a smentire andando proprio a realizzare il punto numero 40 di Milano. Eh sì, destino del cronista, niente problemi. Roberto, ti chiedo invece per quanto riguarda Varese, finora migliore in campo? Decisamente Mike Green sta tenendo in piedi Varese, 11 punti per lui con 4 su 5 dal campo, già 16 di valutazione, una prova a tutto tondo, anche se in questo momento Mike Green è in panchina a rispettare. E allora ti lasciamo rifiatare anche a te, Roberto, perché clima e tensione sicuramente caldi, quelli del forum, veramente partita bella che è un po' una ciliegina sulla torta di un girone d'andata comunque interessante di questo campionato. 40 pari quando manca un minuto e 41 alla fine, dicevamo anticipo di mezzogiorno che invece ha visto Sassari Corsara a Roma, una Roma che seppure ha in bacheca lo scalpo della capolista varese contro le big non ha certo brillato finora malgrado l'ottimo campionato. Fabrizio Fabbri, che Roma si è vista e soprattutto che Sassari si è vista, perché ho visto una fiammata nell'ultimo quarto, 4 triple che hanno di fatto spaccato la gara. Beh, avere la famiglia Diner nel proprio roster è una garanzia quando si gioca a punteggi alti e si cerca tanto il tiro da tre punti. Trevis eccezionale nell'arco di tutta la partita, se otterrà il passaporto italiano credo che la nazionale ovviamente ne gioverà anche in vista degli europei di Slovenia. Sì, bisogna fare di tutto per fargli arrivare questo passaporto, Fabrizio. È tutto il movimento italiano che spinge, ma chi veramente poi è stato il killer silenzioso della CEA Roma è stato assolutamente Drake, con due triple che hanno spaccato l'incontro su un pallone che poteva essere, dopo un pallone che poteva essere determinante per Roma, un pallone rubato in cui si era involato in contropiede Gani Laval, autentico mattatore per Roma dell'incontro, un'infrazione di passi di quelle che si commettono nei college senza difesa davanti a lui. Da lì, dal possibile più tre, la partita è completamente cambiata. Bisogna dire che è stata una partita bellissima, come lo era stata quella con Varese, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Roma ha pagato assolutamente la giornata no di alcuni attesi protagonisti, perché Goss ha chiuso con soli 4 punti e percentuali comunque risibili, perché ha un 1 su 7, uno 0 su 4 da 3 punti. Lorenzo D'Ercole, nessun punto a referto. Non è bastata la partita mostruosa di Gani Laval, perché dice 34 punti, 14 rimbalzi, 11 falli, scusate, 17 rimbalzi, 11 falli subiti, 57 di valutazione. Credo che ormai il centro di origine nigeriana sia una certezza. Shaquille O'Neal, insomma, numeri alla Shaquille O'Neal. Tra l'altro, ai liberi come se l'ha cavata? Per quel poco che ho visto, li ha messi anche dentro. Assolutamente bene, perché ha chiuso con un 6 su 7, è stato l'autentico protagonista per Roma. Ripeto, sono mancati gli altri, non Gigi D'Atome, che nonostante un colpo subito all'osso sacro su una caduta è riuscito a fornire il solito contributo, bene anche Taylor, ma ripeto, Sassari, che tra l'altro continua a giocare una pallacanestro godibilissima, merita l'attuale primo posto in classifica assieme a Montepaschi e a Varese, che sta giocando. Qualificazione per le Final Eight ottenuta da Sassari. Roma sarà impegnata a Brindisi il 30, al prossimo turno di campionato. La Final Eight non è in tasca, dovrà ancora mettere qualche vittoria, ma resta l'applauso dei quasi 3.500 del Palazzo dello Sport di Viale Tiziano, a dimostrare, non sono i 9.000 ovviamente del forum, ma amore risbocciato. Accontentiamoci. Anche perché ricordiamolo, l'ultimo giorno utile per iscriversi, Roma a un'ora dalla chiusura dello step che avrebbe sancito chi avrebbe partecipato alla Serie A, era virtualmente fuori dal massimo campionato, perché Toti era titubante. Assolutamente. Per quelle che erano le premesse, insomma, ci si può accontentare. Assolutamente, anzi Calvani sta facendo un gran lavoro con un roster sicuramente di carneadi, a parte Gigi D'Atome, direi. Allora, grazie Fabrizio Fabbri, andiamo subito a Bologna, dove troviamo il nostro Stefano Valenti, che invece no, è caduto Stefano Valenti, peccato. Adesso lo andiamo a recuperare, però intanto possiamo leggere il tabellino di questa sfida tra Bologna e Siena, 66 a 77 per il Montepaschi, che tra l'altro è atteso da una settimana ben complicata, perché il 27 parte la fase top 16 di Eurolega, poi il 4 gennaio si va in trasferta a Istanbul contro il Fenerbahce di Pianigiani, e quindi sarà interessante vedere come Siena reagirà anche al doppio impegno europeo, unica delle big a conquistarsi questo onore, ma a dover far fronte anche a quest'onere. Stefano Valenti, ci sei? Sì. Sono qui, eccomi. Eccolo Stefano, sempre presente. Allora Stefano, un Montepaschi che si conferma ormai squadra ben consolidata nelle mani di Banchi e che sbanca Bologna. Sì, assolutamente, con una partenza clamorosa, più 17 nel primo quarto, 10 su 12 al tiro da campo, pressoché infallibile nel tiro da tre punti, Bologna tramortita, tirando malissimo, Bologna priva di Minard per una forte distorsione alla caviglia e non è detto che rientri domenica, e che aveva anche Hasbrook, Poet e Gigli in condizioni non perfette. La partita si è incatenata ovviamente su quella più bruciante di Siena. Bologna è riuscita comunque a risalire anche grazie al merito di giovani come Moraschini e Imbrò, fino a meno 5 sul finire del secondo quarto, meno 4 anche nel terzo quarto, l'ultimo sussulto risalendo da meno 13 a meno 7 a 3 e mezzo dalla fine con due triple di Smith, ma poi lì ha subito risposto con una tripla molto importante Brown, canestro di Moss, e la partita finisce lì con meriti indiscussi di Siena e soprattutto della sua difesa, le difese che ha anche alternato hanno mandato un po' in confusione l'attacco di Bologna, Bologna che è finito assolutamente in emergenza, 0 su 5 da 2 nell'ultimo quarto, nessuna palla recuperata e 6 palle perse. Eh sì, insomma, ecco Stefano, ti chiedo rapidissimamente perché siamo già in collegamento con Caserta, ma questo roster senese può reggere il doppio impegno con le top 16 allargate di quest'anno in Eurolega, visto che è l'unica big che si è conquistato questo onore, ma anche quest'onere sul campo? Guarda, sicuramente se ne affronta la top 16 con la mente sgombra perché ha raggiunto il suo obiettivo di stagione, questo è innegabile. La nuova formula la mette in un girone molto complesso con tre squadre fuori portata, trovare la quarta, che vorrebbe dire provare ad agguantare i playoff, è altrettanto complesso, però credo che la stagione di Siena a questo punto, e viste anche le difficoltà delle potenziali rivali per lo scudetto, comincerà a virare presto verso l'obiettivo di campionato. Per l'obiettivo di campionato il roster di Siena è assolutamente competitivo e quindi il famigerato passo indietro, anche alla luce della partita giocata stasera, molto solida, sinceramente faccio fatica a individuarlo. Benissimo, grazie Stefano Valenti e con l'occasione auguri di un buon Natale, ma tanto domenica ci ritroviamo. Allora, subito a Caserta da Carmelo Presti Simone per questa vittoria di Venezia al supplementare sulla Juve Caserta. Buonasera Presti Carmelo. Buonasera Dario, ben trovati qui dal Palamaggio, vittoria, successo di Venezia che ha spinto all'overtime qui a Caserta, 83 a 77, possiamo dire che nel bene e nel male Stefano Gentile, diciamo così, condiziona, influenza insomma la gara della Juve Caserta, mette una bomba importante del più 2 a 4 minuti, poi si va al supplementare, c'è un fallo tecnico che viene fischiato a Stefano Gentile, l'abbiamo visto MVP la partita dell'All-Star Game che si è giocata a Biella, poi Venezia la spunta, forse grazie anche, anzi sicuramente grazie all'esperienza di Alvin Young, 13 punti alla fine per lui, Pulleri 11 punti e anche a un super Šefčík monumentale nell'area colorata, non solo, anche dal perimetro con 4 su 5 da 3 punti, 4 chiude con 17 punti finali. Noi siamo con Pino Sacripanti, il coach della Juve Caserta che sta conducendo un campionato più che dignitoso, questa partita forse qualche piccolo rammarico c'è? Sicuramente siamo arrivati con la palla in mano della vittoria per chiudere la partita, purtroppo non l'abbiamo capitalizzata, siamo andati supplementari e supplementari non siamo stati bravi nell'essere lucidi nel momento importante, siamo un po' incaponiti nel dare la palla dentro e non buttarla fuori, abbiamo preso dei tiri un po' strani, alla fine Venezia ha vinto una partita per episodi, quindi complimenti a loro. Ecco Pino, è arrivato Mavreides, insomma hai un cambio in più sugli esterni, che oggi comunque è tornato utile, insomma per minutaggio, gestione, playmaking. Sì, non c'è dubbio, anche se oggi si è fatto male Maresca, non ha voluto giocare gli ultimi 20 minuti, gli ultimi 15, a Brindisi si era fatto male Ionusas, insomma siamo sempre un po' sfortunati, speriamo che di poter avere a disposizione tutti e poter giocare con un po' più di rotazione, di tranquillità per cambi voluti e non costretti. Gli obiettivi della Juve Caserta? Beh, è chiaro che noi ci dobbiamo salvare, dobbiamo fare più punti per tutte le partite, guardarne una per uno, purtroppo sono due partite tra quella di Brindisi e quella di oggi che perdiamo all'ultimo secondo, arriviamo in più due minuti più due o pari e questo è sicuramente sicuramente ci ha dato molto fastidio, però adesso bisogna riprendersi e ripartire. Ultima battuta, Fino, c'è il derby, il 30 contro Avellino, che partita immagini? È una partita dura, una partita molto ruvida, come sono tutti i derby, e quindi cercheremo di affrontare migliori dei modi, vedendo sempre grande difesa, però cercando anche di essere un po' più lucidi e fare meno così delle scelte un po' più pulite negli ultimi minuti. Dario, grazie mille, prego, velocissimo Carmelo. Sì, no, ti volevo dire insomma che c'è stata poi i tifosi di Venezia che erano una ventina, c'è stata una contestazione poi a fine partita, però tutto si è risolto serenamente. Bene. Palla spicchi. Eccoci qua ancora insieme, allora andiamo a vedere qualche tabellino interessante. La vittoria della Cheboletta Cantù sulla Sutor Montegranaro in trasferta, 100-79, nettissima la vittoria dei canturini con i 19 punti di Marco Svili, come ti sbagli, perché è uno dei grandi protagonisti dell'annata dei Brianzoli, in 33 minuti, 2 su 6 da 2, 5 su 6 da 3 per una Cantù che ha tirato col 52%. Da 3 punti, anche 7 rimbalzi e 22 di valutazione, 19 punti per Taius che aggiunge anche 7 rimbalzi, 24 per Pietro Aradori in 29 minuti per un 36 di valutazione, guardate che numeri, 5 su 6 da 2, 1 su 1 da 3 punti, 11 su 12 ai liberi, anche 5 rimbalzi, 2 recuperi e 3 assist, partita coi fiocchi e chissà cosa farà Aradori ora che arriva anche il nuovo playmaker Anderson. Per quanto riguarda Montegranaro invece, 14 punti per Kyle Johnson, 23 in 32 minuti per Valerio Amoroso, 6 su 8 da 2, 2 su 6 da 3 punti, un solo rimbalzo, 2 perse, 2 recuperate per un giocatore che sembra riuscire a ritrovare la brillantezza che aveva perso peregrinando per varie squadre italiane, ora che è tornato proprio a Montegranaro. Allora, per quanto riguarda invece la Lega 2, i risultati della dodicesima giornata, Bologna-Barcellona 64-80, Scafati-Imola 89-81, Trieste-Trento 71-69, Brescia-Forlì 93-97, Iesi-Pistoia 74-72, 79-72 il punteggio con cui la 9 più Casale Monferrato batte la Tezenis Verona. E allora entriamo in fase di commento, ben trovato Carlo Genta. Ciao Dario, buonasera a tutti. Ciao Carlo, allora ti stai godendo questa Milano-Varese oppure ultimi regali? Ancora no, sto per collegarmi. Te lo consiglio vivamente perché primo tempo 43-40 per Varese, Milano attesa all'ennesima prova del 9, no Carlo? Sì, Milano mi sembra che stia cambiando pelle e siamo alla fase di... così, di invenzione della primavera, perché il primo obiettivo stagionale è stato fallito e quindi adesso si tratta di ricostruire una squadra magari con un po' più di logica e con qualcosa di più funzionale di un playmaker che in un anno e mezzo non ha mai funzionato come Omar Cook, Dario. Eh sì, anche perché tra l'altro prossimo appuntamento in calendario importante sono le finalette di Coppa Italia, ospitate proprio al Forum con finale il 10 febbraio, un altro appuntamento che la Milano dai tanti milioni di euro investiti non può mancare. Curioso questo fatto che si stia cercando in tutti i modi di ricostruire la squadra dell'anno scorso, no Carlo? Perché ma Dario, cominciano a essere tanti gli appuntamenti che Milano non poteva fallire negli ultimi anni, quindi... anche questa Final Eight ospitata in casa è un'occasione, però quante ne ha avute Milano? È ora che cominci a vincere qualcosa. Quindi sì. Sai, ormai il tempo stringe, i soldi spesi sono molti, quindi non ci sono più molte prove di appello, secondo me, per Milano, che è una squadra che sembra sempre in fase di costruzione, però dopo tanti anni, dopo tanti soldi spesi, ripeto, è ora che comincia a vincere qualcosa. Le grandi, le big cambiano pelle perché il mercato aperto, anche Cantù trova il suo nuovo play, Anderson, e staremo a vedere che impatto avrà sul gioco di Trinchieri, perché l'anno scorso era arrivato un nome importante come Perkins e i risultati furono a corrente alternata, no? Ma sai, Perkins era arrivato dopo un infortunio, dopo un lungo stop, secondo me non era poi così male, fosse stato possibile. Pure a me piaceva, pure a me piaceva. Anche perché in una squadra così schematica, così bella, così precisa come Cantù, Perkins era il giocatore che poteva dare un pizzico di follia. Adesso vediamo questo, però a Cantù comunque sono molto bravi a prendere gli americani, sono molto bravi a prendere i giocatori e soprattutto hanno una squadra in grado di metabolizzare quelli che arrivano. Quindi, a differenza di Milano, dove c'è sempre il cartello lavori in corso appesi, a Cantù c'è qualcosa di diverso, c'è una squadra che già esiste e funziona da sola. Eh sì, c'è una struttura, un'impalcatura ben più solida. Grazie Carlo, ci ritroviamo domenica, non mancare l'appuntamento. Un abbraccio. Flavio Tranquillo, professore, come sta? Bene, grazie. Allora Flavio, prima di entrare nel mezzo delle nostre cose cestistiche, permettetemi di segnalarvi, per chi è ancora alla ricerca dell'ultimissimo regalo, due libri che vale assolutamente la pena di sfogliare per noi appassionati di basket. Basket, Uomini e altri pianeti, il libro che Flavio Tranquillo ha scritto a quattro mani con Ettore Messina in merito alla sua all'esperienza del coach sulla panchina dei Los Angeles Lakers come assistant coach, ma soprattutto sul suo attraversamento del pianeta America, e poi Quando il basket era il Jordan, un libro in ricordo del grande Aldo Giordani, in molti l'hanno definita il Gianni Brera del basket italiano, e come dar loro torto. Ecco, insomma, pagine che nelle nostre librerie di aficionados della palla spicchi non possono mancare. Flavio, ennesimo esame per Milano, ma il campionato ci dice che quella delle big che alla fine sta messa meglio al momento è secondo me Siena, perché ha trovato la quadratura del cerchio, e poi c'è una Sassari che continua a sorprendere, se non altro perché unisce risultati e una pallacanestro davvero davvero divertente. Assolutamente, non c'è dubbio. Quando è venuto qui a vincere al Forum, dico qui perché sono al Forum nell'intervallo di Milano Varese, Sacchetti ha detto: se ci fosse il solo giro dell'italiana come nel calcio, magari potremmo anche pensare per un attimo di sognare. Quei playoff, sognare non possiamo sognare, però nel frattempo giocano davvero una gran pallacanestro, che nei playoff trovi una squadra magari come Siena che ha un roster enormemente più lungo e più impatto fisico, e quindi man mano che le serie vanno avanti questo diventa un fattore sempre più importante. Senti, ti sei dato un po' una spiegazione del perché? Io ho un rovello che da una settimana non riesco a sciogliere, proprio Frates via da questa Milano che deve ricostruirsi. Insomma, è una notizia che un po' ci ha sorpreso tutti, perché partire dall'allenatore in seconda è sembrato veramente più un colpo di marketing che di strategia tecnica. Tu che ragioni ti sei dato? Guarda, cerco di non darmi ragioni delle scelte altrui, provo a vedere se gli altrui le rendono pubbliche, siccome così non è stato fatto, posso semplicemente dire che è un fatto che non ho mai assistito a una situazione del genere, però naturalmente mi mancano le specifiche, quindi rimango sorpreso quanto te, però è una decisione interna di Milano. Senti, facciamo un salto nell'NBA, visto che non possono sfruttare l'occasione. Torna Nash, i Lakers vincono e si è visto qualcosina in più della mano di D'Antoni in questa prima uscita col direttore d'orchestra designato, a cui tra l'altro il coach ha regalato subito 41 minuti, come a dire, adesso che sei tornato di lavoro ce n'è davvero tanto da sbrigare. Beh, sicuramente è un po' più facile vedere che succede qualcosa sui pick and roll, ed è un po' più facile vedere una transizione non necessariamente veloce a 300 all'ora, però veloce nell'entrata nell'attacco, cioè un attacco che comincia ad attaccare presto. Detto questo, i Lakers sono ancora anni luce lontani dalla quadratura del cerchio, però il rientro di Nash e il rientro di Gasol sono l'inizio per potersi porre i problemi quelli veri, perché naturalmente quelli con Jordan Hill e Morris non erano quelli veri. Eh sì, intanto almeno ci sono i problemi, ma anche le possibili soluzioni. Ma Gasol dici che rimane? Oppure queste voci di questa trade alla fine si potrebbero davvero concretizzare? È un giocatore complicatissimo da muovere, soprattutto in questo momento non mi sembra il problema principale di per sé stesso, quindi bisogna vedere. Certo che se tra qui e febbraio dovesse dire o far capire abbondantemente che lui non ci vuol stare, allora è un altro fatto, ma altrimenti non vedo la possibilità onestamente di muoverlo. E allora Flavio, da qui a febbraio c'è ancora tanto basket da raccontarci e commentarci insieme. Intanto grazie, ti lascio al secondo tempo appena iniziato, siamo 43 pari, la tripla di Burussis te la racconto io, il resto vartela a godere. Grazie. Sul campo vado. Grazie Ciao. A Flavio Tranquillo e grazie a Roberto Scaltriti in regia, a Narita D'Ambrosio, guest star nella nostra redazione, Giorgio De Luca che ha preparato tutta la puntata e la scaletta. Gli auguri di Palla Spicchi anche da parte mia, ma ci ritroviamo domenica perché c'è ancora campionato, c'è ancora tanto basket da raccontarci insieme. Un saluto da Dario Ricci.